carne tesa, smisurata violenza, mente vuota, priva di consistenza, non più fiato da riprendere, solo alito bollente, caldo insopportabile, aria irrespirabile, la luce può ferire, il vento sa bruciare, meraviglioso modo di ricoprire le cose e le labbra bruciano, le parole rare e il terreno in questo punto affonda e strappi, strappi e strappi che divorano distanze, gridano roventi, che modo di uscire dai sé, strappi, strappi e strappi che divorano distanze, gridano roventi, che modo di uscire dai sé. Scavalco il confine alla soglia del sogno e qualcuno ride e non c'è bisogno, fa spaventare la terra che emerge dal mare, affascinante voglia di stare a sinistra del bene, al centro del viaggio in cui tutto conviene. Nell'attimo in cui tutto è possibile,